Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ed eccoci qua, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, è arrivato l'arbitro bancario finanziario, il nuovo mediatore nelle liti fra banche e clienti, una figura prevista dalla legge di riforma del risparmio che si occuperà di tutte le controversie attivate dai clienti di banche finanziarie sulle materie vigilate dalla Banca d'Italia. Quindi sono esclusi, poi lo preciseremo nel corso della puntata, anche tutti quei conflitti legati per esempio la diffusione di servizi di investimento. Oggi trovate tutte le informazioni su questa nuova figura sul Sole 24 Ore, nelle pagine di Affari Privati, ma anche Salva Danaio si mette a vostra disposizione per rispondere alle domande di chi è interessato teoricamente a percorrere questa nuova via per dirimere un contenzioso con la banca o con l'intermediario finanziario. Tra l'altro questo organismo è articolato sul territorio nazionale in tre collegi indipendenti, quindi abbiamo anche delle sedi vicine. Chi ci aiuta stamattina a capire qualcosa di più su questa figura operativa già dal 15 ottobre, il professor Antonio Gambero, professore ordinario di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza all'Università di Milano, nonché avvocato, autore di una produzione scientifica nel campo del diritto civile piuttosto vasta. Professor Gambero, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Grazie di averci dato la sua disponibilità, così come ringrazio invece un ospite che ha già frequentato Salva Danaio, Liliana Ciccarelli, responsabile area conciliazioni di cittadinanza attiva. Dottoressa Ciccarelli, buongiorno e bentornata anche a lei. Grazie, buongiorno a voi. Naturalmente microfoni aperti agli ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde, già a vostra disposizione, potete già iniziare a prenotarvi per intervenire o potete già scriverci al 349 238 6666. La borsa stamattina, borsa ballerina, perché la giornata è cominciata piuttosto bene in Europa, abbiamo avuto degli indici in rialzo di oltre mezzo punto percentuale, particolarmente vivace è stata da stamattina la seduta di Francoforte, adesso invece hanno un po' tutte rallentato il passo, ma è stata particolarmente volatile l'avvio di seduta di Piazza Affari. Milano ha aperto con un guadagno, poi ha perso mezzo punto, è arrivata a riguadagnare oltre mezzo punto, adesso un più 0,20% sulle FTSE MIB. Cosa succede? Che nel vortice stamattina sono finiti due titoli. Impregilo ha avviato la seduta con un calo dell'8%, è stata bocciata nel giudizio da una casa di investimento, Exxon BNP Paribas, e il titolo appunto perdeva 8 punti, poi ha recuperato tutto, adesso è ancora in calo del 3,43%. Stessa cosa per Telecom, è partita con un ribasso di 6,5 punti, adesso ha recuperato, ma è ancora in calo dell'1,12%. Abbiamo dei ribassi anche di 2,5 punti su Bulgari, per Buzzi Unice -2, Mondadori -1,73, Autogrill -0,8, Italcementi -0,6%, comunque la situazione di Impregilo trascina giù tutti i titoli del cemento, mentre abbiamo un quadro positivo per Unicredit, quindi per il settore bancario, più 1,21% per Piazza Cordusio, Tenaris più 1,13, Snam e Retegas in rialzo di un punto con la Popolare di Milano più 0,9%, per Finmeccanica. Neanche a dirlo, è ancora l'euro a correre sul dollaro, stamattina siamo a 1,50 e 30, e questi sono un po' i temi della giornata mentre siamo ancora in piena stagione di trimestrali dagli Stati Uniti. Il petrolio è leggermente al di sotto degli $80 al barile, ma sta mantenendosi abbastanza stabilmente su questa soglia. Noi adesso andiamo al tema di oggi, pur senza parlare di calcio parliamo però di arbitri. Conti correnti troppo cari? Problemi con il mutuo o con la gestione degli assegni? Il reclamo in banca, ma anche a Poste Italiane per BancoPosta, ora si fa con l'arbitro bancario e finanziario, la nuova figura voluta da Banca Italia che dal 14 ottobre scorso ha il compito di risolvere le controversie tra banche, clienti e altri intermediari finanziari, il tutto in forma stragiudiziale. Il ricorso alla BF può essere presentato da tutti i clienti senza l'assistenza di un avvocato, per questioni relative a operazioni o comportamenti avvenuti dal 1 gennaio 2007 in poi. È necessario anche versare un contributo spese di 20 euro, che sarà poi rimborsato dalla banca se il ricorso è accolto. Prima di rivolgersi all'arbitro, però, il cliente deve tentare di risolvere il problema direttamente con l'istituto di credito, presentando un reclamo. La banca, quindi, che ora è obbligata ad avere un ufficio reclami o comunque un addetto a questo compito, ha 30 giorni per rispondere. E se questo non succede, o la risposta è insoddisfacente, il cliente può allora ricorrere all'ABF. A questo punto scatta una procedura rapida che nel giro di 165 giorni al massimo dovrà portare al rispetto della decisione collegiale da parte della banca se viene data ragione al cliente. In particolare l'arbitro può decidere su tutte le questioni che interessano operazioni e servizi bancari e finanziari, come i conti correnti, i mutui, i confidi, i prestiti personali, le carte di credito, anche revolving, e la cessione del quinto. C'è però un tetto di 100.000 euro per i risarcimenti nelle controversie in cui si chiede una somma di denaro, mentre non c'è limite d'importo quando si chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà. 800 24 00 24, allora raccontateci un po', chissà se avete una lite in corso con la vostra banca, non è che sia una situazione infrequente nel nostro paese, anche questo è un grande cavallo di battaglia nella nostra trasmissione. Abbiamo scoperto negli ultimi anni come si siano aperte tante strade per poter far valere i nostri diritti quando non andiamo d'accordo con l'intermediario finanziario, e abbiamo visto che è capitato tantissime volte negli ultimi anni, per l'appunto. Professor Gambero, ancora buongiorno e ancora grazie di essere con noi. Io tra l'altro ovviamente mi sono fatta una chiacchierata preventiva, come faccio sempre con i miei ospiti prima dell'avvio della trasmissione, e ragionavo con la dottoressa Ciccarelli, a cui poi magari farò anche ribadire questi concetti, che sul fatto che esiste una geografia piuttosto ampia delle sedi conciliative, per cui oggi, pur avendo un sistema di tutele che risulta ampiamente rafforzato rispetto a qualche anno fa, rispetto al passato, tutto ciò però rischia di confondere le idee dei consumatori. Qual è la novità vera sulla quale possiamo far focalizzare l'attenzione ai nostri ascoltatori relativamente alla nascita di questo nuovo conciliatore, questo arbitro bancario finanziario, professore? Ma direi che qui la novità è rappresentata dallo sforzo compiuto dalla normativa e dalla Banca d'Italia di incentivare gli intermediari finanziari, e quindi sostanzialmente le banche, a prendere molto più sul serio i reclami della clientela. Perché, come si ricordava inizialmente, il meccanismo parte da un reclamo del cliente verso la sua banca, il suo intermediario finanziario, che lamenta qualche cosa. Questo reclamo d'ora in poi dovrà essere preso piuttosto sul serio, perché qualora la risposta sia negativa o manchi la risposta dell'intermediario, si può avviare questo arbitro bancario e finanziario mediante una segnalazione che viene fatta tramite poi varie sedi, ma sostanzialmente la sede deputata è la Banca d'Italia, che ha una commissione tecnica nelle varie, presso tutte le sedi, ma poi c'è una commissione tecnica attualmente a Roma, che poi sarà comunque presente a Milano, a Roma e Napoli, la quale potrà dare avvio al procedimento invitando il cliente a comunicare all'intermediario che è stato attivato l'arbitro bancario finanziario. Che cosa succede in seguito? Succede che l'intermediario ha 30 più 15 giorni di tempo per giustificare la ragione del suo comportamento, del primo reclamo, e su queste ragioni giudica un collegio composto da persone indipendenti. Il collegio giudica secondo diritto e emette quella che è una succinta motivazione, comunque chiamiamo una sentenza, per farci capire. Che però non è vincolante per l'intermediario. Non è vincolante per l'intermediario, però attenzione, nel senso che se l'intermediario non si adegua, poi il suo nome viene segnalato dalla Banca d'Italia, viene preso in considerazione dalla vigilanza, e quindi sostanzialmente l'intermediario che non si adegua, ma io penso che non capiterà, alla decisione dell'arbitro bancario e finanziario è esposto a rischi reputazionali veramente forti. Certo, ma professor Gambero, negli ultimi anni abbiamo visto tante volte situazioni di forti problemi reputazionali per il nostro sistema bancario. Noi ci siamo occupati, e questo è stato anche tra l'altro lo spunto per costituire il famoso consorzio Patti Chiari, che poi ha avuto tutti i problemi che ha avuto recentemente con Lehman Brothers, però per esempio tanti anni fa non facevamo altro che parlare dei conti correnti, che erano di gran lunga i più costosi d'Europa. E da lì mi hanno detto, proprio anche in sede ABI, si manifestò un problema reputazionale talmente alto da far ripensare integralmente il rapporto con il consumatore. Quindi non è un tema nuovo. Lei davvero pensa che l'attività dell'arbitro finanziario possa rappresentare un deterrente importante per dirimere le controversie, ma proprio per non farle neanche nascere, perché il punto è anche un po' questo, no? Sicuramente, però prendiamo forse il problema dalla coda, perché su questo problema, diciamo, dell'efficacia della pronuncia dell'arbitro bancario e finanziario, forse c'è un po' di misunderstanding, come si suol dire. Nel senso che qui non è semplicemente un problema genericamente reputazionale, che i giornali, la radio, la televisione dicono che le banche sono esose, che i conti correnti costano troppo, eccetera. Qui abbiamo una decisione di un arbitro, cioè di un collegio composto da persone che, nel mio caso a parte, sono comunque persone eminenti, le quali dice chiaramente che secondo diritto l'intermediario ha torto e avrebbe dovuto fare diversamente. Mm-hmm. Ecco, di fronte a un intermediario che fa spallucce, riottoso, che non fa nulla, che si astiene, c'è però una segnalazione che parte dalla vigilanza della Banca d'Italia, non è cosa da poco, certo. Non è come scrivere un articolo da qualche parte, qui c'è un meccanismo istituzionale. Insomma, se in passato forte. Le banche si sono dimostrate ben poco sensibili ai problemi reputazionali sollevati da tutta una serie di sedi, ma anche Bruxelles, quindi erano comunque figure istituzionali molto ampie, ammettendo appunto che siano poco sensibili alle sollecitazioni giornalistiche, di fatto questa spinta dovrebbe far cambiare qualcosa. Dottoressa Liliana Ciccarelli, io tra l'altro già devo andare in pausa, magari allora guardi, le chiedo ancora un secondo di pazienza, perché il tema che mi interessa capire è anche un po' come si colloca questa figura, che abbiamo già capito è un'emanazione completamente diversa rispetto a quelle con le quali già abbiamo imparato a confrontarci in questi anni, e però non vorrei che si sollevassero problemi proprio di confusione di idee per i consumatori, perché come dire, il conflitto con la banca si può risolvere in più sedi, e allora come facciamo a stabilire quale è il conflitto giusto per andare all'arbitro finanziario piuttosto che all'ombudsman bancario, perché anche quella figura c'è ancora, piuttosto che sollevare una situazione davanti alla Consob, piuttosto che andare al Consumer Forum, piuttosto che andare al tavolo di conciliazione con l'Associazione dei Consumatori, ne abbiamo tanti. Come ci orientiamo? A Salva Denai oggi stiamo esplorando l'attività futura, visto che questa figura è operativa da almeno da poco più che un paio di settimane. Dicevamo sull'attività dell'arbitro bancario finanziario, il nuovo mediatore nelle liti fra banche e clienti, una figura prevista dalla legge di riforma del risparmio, che si occuperà di tutte le controversie attivate dai clienti di banche finanziarie, appunto, sulle materie vigilate dalla Banca d'Italia. Allora, come funzionerà? Questa mattina stiamo cercando di capirlo con il professor Antonio Gambero, ordinario di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Milano, e Liliana Ciccarelli, responsabile area conciliazione di cittadinanza attiva. Con la dottoressa Ciccarelli avevo promesso di ripartire in questa seconda parte della trasmissione, perché mi chiedo se le associazioni dei consumatori abbiano già ipotizzato e immaginato quali possano essere i casi più frequenti che potranno essere dirottati presso questa sede, presso l'arbitro bancario. Dottoressa Ciccarelli, ancora buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scuso per la voce, sono un po' raffreddata. Qua siamo un po' frequenti malanni in questi giorni. Guardi, in realtà quello che noi pensiamo sia importante capire in questo momento, anche per mandare un messaggio, insomma, di chiarezza rispetto alle tante possibilità a cui lei accennava precedentemente, è importante capire che le associazioni di consumatori in questo momento possono essere molto preziose per dare delle informazioni e instradare il cittadino con il suo caso specifico rispetto alle diverse soluzioni conciliative che oggi si presentano. Smistare un po' le pratiche, certo. Perché possa lui scegliere la sede, diciamo, più idonea, più opportuna in relazione diciamo anche a quelle che sono le sue valutazioni, perché senz'altro diceva bene il professore, e sono molto d'accordo con questo, l'istituto di cui stiamo parlando oggi, dell'arbitro bancario e finanziario, è un elemento di novità, nel senso che diventa di sistema la modalità per la risoluzione delle controversie con le banche, no? Che ormai è quella conciliativa prima che quella giudiziaria. In questa direzione si muove anche il legislatore in questi giorni, insomma, lo sappiamo, è su tutti i giornali un po' l'andamento il commento della legge 69, proprio di riforma del processo civile, che va proprio in una forte accelerazione all'istituto della conciliazione. e nel settore specifico è chiaro che diciamo c'era qualcosa in precedenza come l'Ombudsman, frutto però di un'attività di autoregolamentazione del sistema bancario, sì. Esatto, c'erano degli accordi diciamo di negoziazione diretta, cosiddetta conciliazione paritetica, promossi dall'Associazione dei Consumatori e chiaramente insomma annoverata come esperienza di una conciliazione atipica all'interno di uno scenario più ampio di ADR, e c'è diciamo la Consob per le materie di competenza, appunto Consob, quindi in materia di investimenti finanziari, tutto quello che è comunque anche molto ben spiegato sul sito dell'arbitro bancario finanziario.it, dove addirittura ci sono dei percorsi guidati e facilitati per il cittadino, insomma, per muoversi bene all'interno di queste che sono delle opportunità molto serie, ecco, molto concrete di tutela per il cittadino, e c'è appunto l'arbitro bancario. Chi può tenere insieme un po' le fila di tutti questi percorsi? A mio modesto avviso, le associazioni di consumatori che sono nel territorio, vicino ai cittadini e che offrono dei servizi assolutamente gratuiti di informazione, di prima informazione e consulenza, ecco, può essere un momento molto propizio questo delle associazioni di consumatori che hanno a disposizione un po' la carta da giocarsi, che è quella di strumenti facilitatori di questi processi. Tant'è vero che voi, tra l'altro, adesso a parte queste osservazioni, dottoressa Ciccarelli, le associazioni dei consumatori hanno anche un rappresentante che siede ai tavoli dei vari collegi, no? Istituiti su Milano, Roma e Napoli dell'arbitro bancario. Rappresentanti propri, lì il requisito è il CNCU, che è l'organismo di rappresentanza delle associazioni di consumatori riconosciuto a livello nazionale, ha espresso dei nominativi che di soggetti che godono della fiducia del mondo consumeristico, che rappresentano comunque un know-how specifico, no, di professionalità maturate in questi contesti. Ecco, non si tratta di un rappresentante delle associazioni in senso stretto, cioè non si tratta di un segretario di un'associazione piuttosto che di un'altra, si tratta di personalità individuate dal mondo delle associazioni dei consumatori in base ai requisiti dettati appunto da Banca d'Italia per la composizione di questo organismo. Noi, tra l'altro, parlando della figura istituenda dell'arbitro bancario a Soldi e Dintorni, in un'altra trasmissione delle 8:15 del mattino la settimana scorsa, avevamo proprio interpellato uno di questi rappresentanti delle associazioni dei consumatori in seno alla BF di Milano, che è Anna Bartolini, che è una delle maggiori esperte di diritto legato al consumerismo appunto nel nostro paese. La interrompo, dottoressa Ciccarelli, poi continueremo naturalmente ad approfondire le tematiche che lei ci ha proposto, perché vorrei cominciare a coinvolgere i nostri ascoltatori e vorrei anche però suggerire un'altra cosa per chi non volesse appoggiarsi alle associazioni dei consumatori per ovviamente intraprendere la strada del ricorso alla ABF e volesse documentarsi meglio su come questo nuovo organismo funziona. Naturalmente trovate tantissima documentazione in giro su internet, in particolar modo c'è il sito web dell'arbitro che si chiama www.arbitrobancariofinanziario.it. Tutte le banche dovrebbero prima o poi distribuire questa guida pratica sull'attività dell'ABF. Anche sul sito del Sole 24 Ore vi invito a dare un'occhiata, perché abbiamo pubblicato qualche tempo fa proprio la guida sull'attività dell'arbitro, www.ilsole24ore.com, e naturalmente poi credo che anche le associazioni dei consumatori si daranno da fare per poter mettere a disposizione gratuitamente, a favore degli associati o meno, questa guida. Cominciamo a sentire un po' le vostre considerazioni e poi continueremo a sentire anche i nostri ospiti. Cristian da Novara, che saluto, buongiorno, per capire se sono le vostre situazioni dei casi tipici da poter portare davanti a questa figura. Cristian. Sì, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Io volevo esporre il mio problema che ho avuto con il mio istituto di credito circa un anno fa. Sì. A novembre 2008 ho chiuso il conto corrente per aprirne un altro in un'altra banca, e dopo circa 10 mesi io non avevo ancora avuto la chiusura del vecchio conto corrente. Era molto complicato questo conto, nel senso, Cristian, c'era anche un rapporto, una gestione di risparmio, conto titoli aperto, quindi per capire... Un conto semplice, carte di credito, banco, quindi insomma, utente, domiciliazione... La base proprio del rapporto con la banca. Esattamente. La banca mi ha chiesto di lasciare una cifra, circa un centinaio di euro, per gli ultimi movimenti e compensazioni varie, e dopo circa 3 mesi e mezzo ho ricevuto il primo estratto conto di, tra virgolette, chiusura, dove ammontavano tutti i costi di chiusura dell'anno, ultime utenze, domiciliazioni e quant'altro, però di fatto il conto non era chiuso. Ogni mese ricevevo periodicamente il mio estratto conto della banca, naturalmente decurtato del canone mensile, e ad oggi io ho intrapreso un'azione con la mia banca. Non ho ancora intrapreso un'azione legale perché vorrei aspettare una risposta definitiva dalla stessa, sì, infatti, la quale mi ha garantito, ma naturalmente voce, che otterrò il rimborso di tutte le spese che mi sono state addebitate, quindi la spesa del conto corrente mensile, i bolli e quant'altro, dal momento in cui loro hanno ricevuto l'ultima operazione, che risaleva a gennaio del 2009, effettivamente ad oggi. Ad oggi. Allora Cristian, intanto guardi, io abbiamo capito quello che le è successo, sicuramente ha fatto bene, la prima cosa che ha fatto, e anche qualora dovesse decidere di andare all'arbitro bancario finanziario, serve questo presupposto, fare sporgere il reclamo formale davanti alla banca. Professor Gambero, credo che questa sia un po', come dire, una situazione tipica di tutte quelle eventuali denunce che possono essere portate di fronte a questa figura, il caso della chiusura del conto corrente che risulta l'operazione più problematica del mondo nel nostro paese, nonostante le liberalizzazioni di Bersani, l'eliminazione delle spese e quant'altro, e però ancora ci ritroviamo che passano gli anni anche per chiudere un rapporto banalissimo fatto di bancomat, carta di credito e qualche contante, insomma non ce la facciamo. Questa è una situazione tipica che possiamo portare lì all'arbitro bancario? Come giudica questo caso? In teoria sì, nel senso che qui si deve partire con un reclamo rivolto all'intermediario, in questo caso alla banca, e attendere quei 30 giorni per vedere se la banca risponde. Se non risponde, allora si può iniziare il procedimento mediante un ricorso che può essere presentato in diverse sedi, ma presso tutte le filiali della Banca d'Italia, e poi si può fare anche in maniera, no, tra l'altro volevo intanto precisare che si può anche scaricare il modulo per la denuncia sul sito e poi presentarla materialmente, fisicamente. Si scarica il modulo, si compila, è abbastanza semplice, devo dire, e poi si deve avvertire, il comunicare all'intermediario che è stato presentato un ricorso. Dopodiché si deve vedere che cosa risponde l'intermediario, perché l'arbitro giudica dopo aver sentito entrambe le parti, ovviamente, perché questo è un prerequisito fondamentale. E a quel punto ci sarà anche una decisione dell'arbitro se l'intermediario non si ravvede. E allora, insomma, questa è una strada che sicuramente l'ascoltatore può percorrere qualora la banca non desse di fronte al reclamo formale una risposta soddisfacente. Tra l'altro, a voce, diceva l'ascoltatore, mi hanno detto che mi rimborseranno tutto, e poi bisognerà vedere appunto se saranno, come dire, delle promesse a cui seguirà anche un'attività concreta. Tra l'altro, professor Gambero, c'è anche un piccolo costo da sostenere per attivare la pratica davanti all'arbitro bancario, 20 euro, mi pare di capire, che però vengono stornate al consumatore qualora il ricorso venga accolto, se non ho capito male. Esatto, è così. Benissimo, e vabbè, in ogni caso, insomma, una piccola spesa istruttoria mi sembra abbastanza necessaria. Le controversie che si possono presentare sono retroattive, professor Gambero? No, retroattive sì, nel senso che il caso possono che essere dato origine deve essere un caso successivo. Aspetti, qual è la data giusta che non mi ricordo mai? 1 gennaio 2007, se non mi ricordo male. 1 gennaio 2007. Questo è il limite fondamentale. Ma poi occorre che il ricorso faccia riferimento a un reclamo presentato non oltre 12 mesi prima, quindi c'è un altro limite temporale. Ma direi che la retroattività qui c'è, nel senso che l'arbitro è attivo dal 15 ottobre, però i casi che possono essere portati sono i casi che sono successivi al 1 gennaio 2007, basta. Benissimo. 800 24 00 24, il numero verde ancora per i vostri interventi, ho ancora tanti ascoltatori da sentire e molti che chiedono: potrà intervenire questa figura anche per esempio per la situazione Lehman Brothers? Temo di no, perché qua la materia dei servizi di investimento, nell'ambito dell'investimento, non rientra nel raggio della competenza dell'arbitro bancario finanziario. L'attività dell'arbitro bancario finanziario al centro della nostra trasmissione di questa mattina, al centro delle vostre domande, soprattutto Isabella da Cremona, benvenuta. 800 24 00 24, avete ancora 7-8 minuti di tempo per prenotare i vostri quesiti. Isabella. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo sapere se mi posso rivolgere a questo nuovo arbitro per dirimere una controversia riguardante uno swap che io ho stupidamente sottoscritto in quanto mi è stato venduto come una specie di assicurazione per coprire il mutuo prima casa. Ah, ecco, quindi diciamo che il tema è il mutuo e quindi lei ha sottoscritto anche un contratto di protezione, che è un po' quello che è successo a molti enti locali nel nostro paese. Esatto, quindi si è trovata. Allora, sentiamo i nostri due interlocutori di questa mattina. Dottoressa Ciccarelli. Guardi, ci possiamo provare? Caso, no? Sì. In questo caso, da queste brevi battute insomma della signora Isabella, penso che si tratti di competenza Consob. E in questo caso esiste anche la possibilità di una procedura di conciliazione. Ma non è un servizio di investimento, era la protezione per l'aumento dei tassi di interesse del mutuo. Si tratta probabilmente di un prodotto composto in cui la rilevanza dello strumento finanziario e diciamo appoggiato poi su titoli derivati è prevalente e fa scattare la competenza Consob. Perché sappiamo che molti prodotti si presentano in realtà come prodotti composti e rispetto ai quali l'incidenza della, diciamo, del peso dell'investimento finanziario è prevalente e quindi c'è una competenza Consob. Isabella, vorrei sentirla. Quanto capire quanto le sta costando tutto questo, cioè che danno economico. Dunque, le spiego. Il mio mutuo è indicizzato trimestralmente. È nata così la cosa. Il mutuo è indicizzato trimestralmente. È un mutuo a tasso variabile. Esatto, invece lo swap che ho scoperto chiamarsi swap dopo perché mi è stato venuto appunto con una specie di assicurazione è indicizzato mensilmente, quindi io pago una rata di mutuo che adesso è intorno ai 420 euro più 280 euro di copertura, chiamiamola copertura, perciò il mio mutuo è, anziché diminuire, è aumentato a dismisura. Isabella, vorrei sentire il professor Gambero su questo caso, perché adesso io capisco un comune che abbia dei bilanci da salvaguardare, un'impresa che magari, come, non so, con un mutuo a tasso variabile rischia sicuramente di vedere esplodere il bilancio mensile. Cioè, ma perché a un consumatore che sottoscrive un mutuo per la casa gli si deve far sottoscrivere uno swap? Vabbè, lì dovremmo aprire altre parentesi, però. Lei sì, che cosa suggerirebbe ad Isabella? Concordo con quello che si è detto. Quanto si può intendere, perché senza leggere poi le carte è difficile esprimersi, ma quanto si può intendere mi pare che sia un problema di competenza Consob, però effettivamente si potrebbe provare anche con l'ABF. Non è che costi tantissimo quei 20 euro. Quindi insomma Isabella potrebbe, tanto per dargli anche un'indicazione pratica sulla strada da seguire, intanto fare il reclamo formale alla banca, perché la prima strada da percorrere è quella, quindi su questo dobbiamo essere molto chiari. A seconda della risposta che entro 30 giorni la banca dà, Isabella può decidere di aprire anche la pratica istruttoria all'arbitro bancario finanziario, compilare la modulistica che trova su internet, magari Isabella vada a dare un'occhiata, e professor Gambero, dopodiché chiaramente l'ABF chiama la banca, chiama le due parti, si fa spiegare bene il caso. No, non è così. È lo stesso cliente che deve poi inoltrare il suo ricorso all'intermediario. Poi la segreteria tecnica costituita alla Banca d'Italia chiede all'intermediario di trasmettere le controdeduzioni entro un termine di 30 giorni più 15. E poi la pratica va automaticamente all'arbitro bancario finanziario competente per territorio. Però io a Isabella direi di c'è un mutuo per la prima casa in questione, per cui non vedo che cosa c'entrasse uno swap, visto che adesso i mutui ci possono proteggere anche attraverso il sistema del CAP, della protezione della rata, che è qualcosa di molto più semplice e sicuramente molto meno oneroso, per cui lì bisognerebbe veramente capire cosa si è inventata la banca. Allora, Bruno da Bologna. Oh, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, il quesito che io vorrei porre era questo. Dunque, nel momento in cui io mi rivolgo appunto a quest'arbitro per una qualsivoglia controversia, voi parlavate di 150 e oltre giorni per venirne a capo. Eh sì. Può la banca, come generalmente fa, a mio avviso, è un parere tutto personale, arbitrariamente ricorrere ai mezzi che generalmente usa, tipo iscrizione alla centrale a rischi, chiusura coatta del conto, nel frattempo che questa controversia appunto venga chiarita o se ne venga a capo? Grazie. Bruno, professor Gambero, qua come lei sente i nostri ascoltatori ci mettono non in difficoltà di più, però voglio dire, il fatto di attivare una procedura presso l'arbitro bancario finanziario non è che, come dire, interrompa di fatto tutta quella che può essere poi l'attività di ordinaria amministrazione di un qualsiasi rapporto con la banca, quindi anche se fosse problematico poi la banca va avanti per conto suo. Sì, sicuramente la banca è... Cioè non è da considerarsi come uno strumento di tutela che eventualmente, non lo so, se io non sto rispettando il pagamento di una rata per il mutuo per qualsiasi tipo di problema, il fatto che io possa ricorrere all'arbitro bancario finanziario perché magari ho ragione di volerlo fare, non è che poi la banca... No, però diciamo così che il procedimento davanti all'arbitro bancario finanziario non ha sicuramente effetti sospensivi di nessun tipo. Ecco. Quindi è chiaro che il rapporto continua come prima e ognuno deve rispettare i suoi obblighi, esercitare i suoi diritti esattamente come prima. Qualora però nel corso del procedimento ci fossero altri atti della banca che possono suscitare quantomeno perplessità, si fa un altro reclamo, voglio dire, poi tutto viene cumulato sullo stesso conto. Non è che però non so, l'apertura della pratica alla BF, esatto, non sospende alcunché. Allora, purtroppo ci rimane solo un minuto di tempo, ma io il caso di Andrea da Genova me lo voglio sentire perché mi pare che abbia dell'incredibile. Andrea? Sì, buongiorno. Rapidissimo, se ce la fa, anche sì. Se mi rendo conto. Niente, il mio problema è questo, che io avevo un conto corrente con una banca che è la Banca Nazionale del Lavoro. Sì. È comunque un rapporto che è stato chiuso circa 20 anni fa con la chiusura del conto. E circa 3 mesi fa mi sono visto arrivare una raccomandata dove loro dicono che io il conto non l'ho chiuso e mi richiedono indietro circa 23.000 euro. Sì. Andrea, guardi, adesso io non so se qua è il caso di andare a presentarsi all'arbitro bancario finanziario, ma che dopo 20 anni la banca si faccia viva chiedendole 23.000 euro per un conto non chiuso, dottoressa, per un conto non chiuso, dottoressa Ciccarelli. Guardi, non ci stupiamo di niente. I consumatori non finiscono mai di stupire, no? Nel senso che capita davvero di tutto, però come dire, è chiaro che il ricorso a questo tipo di procedure non pregiudica la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria da un lato, e poi dall'altro vorrei ricordare che rispetto anche a determinate pratiche scorrette come quella che ci rappresentava prima un altro ascoltatore, esiste anche la possibilità di chiamare in ballo l'antitrust, che certamente non andrà a risolvere il singolo caso concreto, no, come, però ecco, può espungere dal mercato determinati comportamenti di pratiche commerciali scorrette come quella che dicevamo prima della chiusura del conto che non risultava, eccetera, insomma, che potrebbe essere una palese attività posta in essere dalla banca per come dire, evitare che il consumatore vada via e scelga un'altra banca, ecco. Quindi diciamo, c'è la soluzione del caso singolo con i percorsi giudiziali e stragiudiziali, e poi però c'è anche la soluzione di sistema, che è quella che diciamo, merita, come dire, un'attenzione, perché l'antitrust, insomma, può aiutare anche a diciamo, eliminare determinati comportamenti, certo, che sono ahimè di sistema. Allora, non dimentichiamo poi, e chiudo, che purtroppo stiamo parlando di queste situazioni di tutela collettiva e individuali in assenza di una seria class action. Perché lo so. Guardi, dottoressa Ciccarelli, non riesco ad entrare anche nel merito di questo perché sono già fuori tempo massimo. Andrea da Genova, io la chiamo così documentiamo un po' meglio il suo caso e cerchiamo di capire se il suo è un caso che si può portare davanti a questa figura, ma io vorrei anche capire se questa banca in questi 20 anni le ha documentato costantemente il fatto che questo rapporto fosse ancora aperto e quindi se ha titolo vero o meno di chiederle indietro questi 23.000 euro. Torneremo a parlare dell'arbitro bancario finanziario e a rimettere insieme magari il professor Antonio Gambero e Liliana Ciccarelli, che io ringrazio, sono in straritardo. Buona giornata domani. Salva Danaio.